Con Selvaggia Velo del River to River, Florence Indian Film Festival, dove è stato presentato il film Sir Cenerentola Mumbai al cinema da giovedì 20 giugno 2019. Selvaggia, ben trovata. Grazie, grazie per avermi invitata a parlare di questo bellissimo film, sì, che ha aperto la nostra ultima edizione del festival, River to River a Firenze a dicembre scorso. Lo raccontiamo brevemente la trama? Certo. Non troppo, perché poi io personale lo devono andare a vedere comunque. È un film intanto girato da una donna, dove uno dei due protagonisti è una donna. È la storia tra di questa domestica, Ratna, e del giovane uomo proprietario di questa casa in cui lei lavora. E i due vengono da due mondi completamente diversi. E i due hanno anche due caratteri molto diversi. Lei è una donna, nonostante abbia avuto una vita complicata, è una donna entusiasta, piena di voglia di fare cose nuove. Lui è un po' demoralizzato, diciamo, da tutta una serie di cose. I due si incontrano tra le mura di casa, e sì, si svolge tutto per gran parte, insomma, in questa casa, e tra i due c'è un'attrazione, insomma, che poi chi lo andrà a vedere vedrà come questa attrazione si svilupperà o non si svilupperà. Sì, è molto bello, è molto delicato, è molto sensibile, e la protagonista femminile, che è questa attrice minuscola di statura, ma di grandezza, cioè riempie lo schermo con la sua presenza, una grande presenza scenica, di Lotta Mascione, che interpreta la ragazza, la domestica, un grande personaggio, ecco. Di questa sceneggiatrice, produttrice e regista, cosa sappiamo? Dunque, è il suo secondo lungometraggio, questo è coprodotto con la Francia. Il coproduttore è il marito della regista, del francese, la regista vive in Francia, quindi comunque è chiaro che chi ha lavorato al film, di chi l'ha scritto, chi l'ha diretto, ha una sensibilità forse anche verso quello che può essere un mercato europeo, dato che lei vive in Francia col marito. Beh, ha fatto un film, diciamo che ha fatto molta gavetta, questo è il suo film, è stato selezionato alla Semaine de la Critique l'anno scorso, ed è lì che i distributori italiani, Academy, lo hanno visto e lo hanno preso, ed è lì che anche noi lo abbiamo selezionato per il festival. Quindi bene, è un grande film, è un grande film. Quali sono, ecco, gli elementi a tuo avviso di maggior interesse di questo lavoro? Interessante il fatto che una storia del genere, che magari a noi da questa parte del mondo può sembrare diciamo possibile, in realtà il film non è stato distribuito in India per ora. Perché? Perché una relazione così delicata e rispettosa, come viene raccontata nel film, nella realtà indiana, diciamo che è molto rara. Quindi forse in India il pubblico indiano non è ancora pronto a vedere sullo schermo una storia del genere che non è proprio molto attinente alla realtà, o comunque rarissima. Questo è un dato interessante. E poi, appunto, alla fine è una storia universale, perché è una storia d'amore tra due persone che si incontrano, che vengono da due mondi completamente diversi, ma che qualche cosa li accomuna. E ripeto, la storia raccontata con molta delicatezza e sensibilità, ma è anche molto coinvolgente. E gli attori, ora parliamo sempre di lei, ma anche lui è un grande attore. Il titolo originale è Sir. Sir è come lei si rivolge al suo datore di lavoro, ed in questa parola è racchiusa tutta una gran parte della relazione che c'è tra i due, la relazione lavorativa. È un film che tocca molte corde, tocca uomini, tocca donne, perché coinvolge tutte e due, entrambe le parti, diciamo, ecco. Una coproduzione indo-francese, in Francia mi dicono che è andato molto bene. Sì, in Francia è andato molto bene. Beh, i francesi sono molto aperti, diciamo, verso il cinema indiano, e questo è un bene. Quindi sono anche abituati a vedere certi film al cinema, forse più di noi. È una coproduzione con il loro paese, quindi è chiaro che anche lì tutto quello che riguarda la promozione del film, diciamo, forse è più semplice, perché comunque è una coproduzione anche con la Francia. E sì, questo è molto bene. Ci auguriamo che anche questa uscita in sala italiana possa avere successo. noi aperto il festival dicembre scorso ed è piaciuto moltissimo. Le anteprime che sono state fatte qui in Italia, nei cinema italiani, hanno avuto successo, quindi vedremo se anche qui col passaparola e con la promozione, insomma, questo film verrà apprezzato come merita. Ecco. Ci racconti anche un po' dell'esperienza del River to River? Certo, certamente. Il River to River è un festival che è nato nel 2001 ed è un festival totalmente dedicato al cinema indiano, ai film indiani e sull'India. E è a Firenze, e è nel mese di dicembre, e quest'anno arriva la 19ª edizione. Negli anni chiaramente noi, lo scopo del festival è quello di mostrare l'India cinematografica a 360 gradi, quindi anche attraverso i nuovi linguaggi che ci sono, quindi oltre ai lungometraggi, ai cortometraggi e ai documentari, chiaramente viene tracciata ancora la storia del cinema indiano, i grandi maestri del bianco e nero, ma anche tutto quello che sono VR o le serie web, insomma, tutto quello che l'India in questo momento ha da proporre o che il mondo esterno ha da proporre sull'India. E questo si cerca di fare in quei 6 giorni a Firenze. River to River, da un fiume all'altro, perché dall'Arno Firenze al Gange, quindi il fluire delle culture, delle idee attraverso il cinema. Il festival poi ha delle pillole, insomma, si svolge anche durante l'anno in altri luoghi d'Italia, quindi a Spazio Vedano a Milano un paio di mesi dopo l'edizione fiorentina di dicembre, e poi quest'anno, per il secondo anno consecutivo, siamo a Roma, all'Isola del Cinema, il 12 e il 13 di luglio, con 2 film, un film Bollywood fantastico, una storia d'amore meravigliosa, il 12 luglio, e poi il 13 una storia in cui racconta intrecci tra diversi personaggi con un finale impensabile. Quindi insomma sono tutte occasioni per vedere film indiani, ecco. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Sir Cenerentola a Mumbai, da giovedì 20 giugno 2019 al cinema. Un saluto e un ringraziamento a Selvaggia Velo del River to River Florence Indian Film Festival, che ha ospitato il film di Rohena Ghera, distribuito da Academy True in 50 copie. Selvaggia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, e grazie a voi.